essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti, sono le 11.08, abbiamo un bel Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, il nostro amico del venerdì già qui accomodato accanto a me, anzi davanti a me, il dottor Franco Confalonieri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, quindi in parte sappiamo già di che cosa parleremo, ma il sommario come sempre è molto ricco, andiamo a sentirlo. Preparazione fisica e mentale, la ricetta giusta per arrivare in forma ai grandi appuntamenti. Dall'ombelico, una chirurgia senza cicatrici. Impara a proteggere i reni dei tuoi bambini. Eccoci qua insieme, 824-0024, se volete parlare di attività sportive insieme al dottor Franco Confalonieri, il nostro... Noi al venerdì abbiamo il menù fisso ormai. Sì, sì. Piatto fisso e menù fisso, ma... tutte le volte cambiamo. Infatti oggi abbiamo deciso di affrontare una puntata un po' diversa. Vogliamo parlare della prestazione, una gara, un evento che per noi riveste particolare importanza, qualcosa che ci mette in gioco, con cui vogliamo misurarci. Ecco, oggi parleremo proprio di questo. Insieme al dottor Confalonieri abbiamo la dottoressa Claudia Gambarino, esperta in psicologia dello sport e docente all'Università di Torino. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi. Allora, dottor Confalonieri, insieme alla dottoressa Gambarino ci occuperemo del corpo e della mente. Sì, vorremmo parlare della prestazione, di come vi preparate per una prestazione, però affrontandola in senso molto generale, quindi non soltanto la prestazione fisica, sportiva, la gara di alto livello, ma anche la gara amatoriale, anche prestazioni particolari come potrebbe essere un saggio di ballo, per esempio. Questo mi piacerebbe molto, E soprattutto vorremmo vedere come ci si approccia alla prestazione da diversi punti di vista, quindi come ci si approccia dal punto di vista della condizione fisica specifica legata alla prestazione, come ci si approccia da un punto di vista invece della condizione fisica generale, il sonno, l'alimentazione, lo stato di salute generale, e anche da un punto di vista mentale, con l'aiuto della nostra esperta, sia da un punto di vista del benessere mentale globale, sia dal punto di vista della gestione dello stress legato alla prestazione, quindi un po' a 360 gradi. Dottoressa Gambarino, allora, il dottor Confalonieri, che qua è a casa, ha in pratica introdotto quali saranno gli aspetti che verranno trattati da lui nel corso della trasmissione. Con lei, come psicologa, ci occuperemo invece dell'aspetto della preparazione mentale. Tante volte le nostre prestazioni sono in qualche modo, non vanno così bene proprio perché noi non siamo mentalmente preparati. Abbiamo magari il ricordo di una prestazione che non è andata bene, pensiamo di non essere all'altezza, insomma bisogna lavorare sull'autostima, se vogliamo chiamarla così, ma non solo. Dottoressa Gambarino, quali saranno le parole chiave allora della nostra trasmissione? Beh, sicuramente le parole chiave saranno integrazione di tutti questi aspetti dei quali avete parlato, sia tecnici, sia tattici e sia sicuramente anche più psicologici. Delle parole chiave potranno essere gestione delle emozioni, autoefficacia oltre che autostima, ma sicuramente metodo nell'allenamento mentale, così al pari dell'allenamento che può essere più fisico. Allora, 824-0024, se cercate un aiuto per prestazioni al top, dottor Confalonieri, ma non solo al top, direi. Sì, siamo qua per aiutarvi, rispetto alle prestazioni che vi attendono, ma io direi siamo qua anche per farci raccontare da voi se avete avuto delle prestazioni negative, se avete vissuto delle sconfitte, perché lo sport è straordinario proprio perché ci mette a confronto con una delle emozioni primordiali, quella della vittoria e naturalmente quella della sconfitta, un'emozione che può aiutarci a crescere molto culturalmente, mentalmente, come persone, se però sappiamo gestirla bene. Quindi da una parte aspettiamo che ci chiediate dei consigli, dall'altra parte che ci raccontiate come avete vissuto eventualmente la vittoria, ma soprattutto la sconfitta. 824-0024, i messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. cambiamo decisamente argomento. Se soffrite di calcoli alla colecisti, dovete magari operarvi, vi è stata suggerita l'operazione, bene, ci sono delle buone notizie. È stata infatti sperimentata una nuova tecnica meno invasiva che non lascia neanche cicatrici. Per capirne di più, in linea con noi è tornato a trovarci il professor Marco Montorsi. Buongiorno professore, finalmente. Buongiorno. Professore di chirurgia generale all'Università di Milano e responsabile dell'unità di chirurgia generale all'Humanitas. Allora, professor Montorsi, si ricorda la canzone di Jovanotti che cantava L'ombelico del mondo? Esatto. In un certo senso anche per voi questo ombelico è un po' al centro dell'attenzione di oggi per parlare di questa tecnica. Certo, senz'altro. Infatti questa tecnica prevede proprio la sua conduzione tutta attraverso l'ombelico, che è un orifizio naturale che viene appunto utilizzato in questo caso per effettuare la colecistectomia. Quindi è una tecnica ancora più rispettosa dell'integrità dei pazienti rispetto alla colecistectomia laparoscopica che già ormai eseguiamo da diversi anni. L'abbiamo chiamata proprio una chirurgia senza cicatrici perché tutto l'intervento viene condotto attraverso quella che è una cicatrice naturale, quindi al termine il paziente ritrova nella grande maggioranza dei casi la piccola cicatrice ombelicale. Professore, sostituirà la chirurgia attualmente utilizzata sino ad ora? O è indicata in alcuni soggetti particolari? Ecco, direi che in questo momento, siccome siamo ancora in una fase, diciamo, di inizio di questa nuova tecnica, che non è nuovissima ma che grazie a nuovi materiali adesso viene utilizzata più spesso, ci sono ancora delle limitazioni al suo uso, ad esempio pazienti che abbiano avuto pregresse infezioni o infiammazioni della colecisti che rendano l'intervento probabilmente più difficile, o pazienti con obesità marcate possono essere ancora difficilmente trattabili con questo approccio. Indubbiamente i vantaggi sembrano essere consistenti, è solo bisognerà che l'esperienza sempre più significativa che avremo ci potrà dire se potrà sostituire in tutto e per tutto quella che al momento è ancora l'intervento più eseguito, che è la colecistectomia laparoscopica con le solite 3-4 piccole incisioni che facciamo. Allora, professor Montorsi, lasciamoci così. State lavorando per noi, aspettiamo sempre, come sempre, buone nuove. Intanto le auguro buona giornata. Grazie anche a voi. Buona giornata. E a tutti. Grazie. Arrivederci. Pronto soccorso. Eccoci, siamo di nuovo qua ad affrontare il tema del giorno. In studio con me il dottor Franco Confalonieri, in linea con noi la dottoressa Claudia Gambarino. Prestazioni sotto il profilo fisico e mentale. Leggo subito un sms tra i tanti che stanno arrivando al 349-238-6666, che mi piace molto, di Gabriele. Facevo sport da giovane, prima delle gare importanti perdevo a metà delle mie forze. Ora canto in un coro e prima dei concerti mi manca la voce. Che faccio? Dottoressa Gambarino. Sì, allora questo ragazzo, no, sembra che dica che a metà, dipende, è anche importante capire che tipo di competizione sta facendo, perché comunque diversi sono comunque le energie richieste per una competizione lunga, come per esempio può essere una partita di calcio, ancora di più per una partita di golf, invece da una prestazione più breve di alcuni minuti, come per esempio per lo sci, è molto più intense. Sicuramente però questo livello energetico che tende a scendere può essere dovuto a degli aspetti mentali, una difficoltà quindi nel gestire le giuste energie proprio dovute a volte all'ansia da prestazione. Stessa cosa per quanto riguarda anche dei cali di voce, cioè degli aspetti che sembrano più somatici, più fisici, però sono sicuramente condizionati da quelle che sono le nostre emozioni e quindi il nostro stato psicofisico. Allora, su questo aspetto possiamo lavorare, ma io devo dire sono molto felice. In linea con noi abbiamo Arturo Bracchetti. Arturo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, proprio oggi a Milano, al Teatro Ventaglio, parte la tua tournée abbinata allo spettacolo Gran Varietà, dove, Arturo, come sempre, tu sei vulcanico. La tua è veramente una prestazione che richiede grande concentrazione, certo. Grande impegno. Sono molto familiare a questo stress perché io, anche col mio spettacolo da solo, giro il mondo e ogni volta che si comincia una nazione nuova io devo ricominciare proprio da zero. Quindi è un esame, ogni volta è un esame, una gara è un esame. Io devo dirti la verità che più va avanti peggio è. Più va avanti peggio è, immagino. Più riesco a maîtriser, come dico i francesi, a, non è che vuol dire masterizzare, ma più riesco a domare e a capire, perché il meccanismo della gara è ripetitivo, e più mi viene la paura, perché la gente ovviamente aspetta sempre di più da me. Ma io penso che la cosa peggiore in tutti questi frangenti è la perdita di energia che uno ha, soprattutto perché molta gente intorno, visto che tu sei la punta dell'iceberg, gratta dell'energia, te la ruba, nel senso che quando uno fa una gara, quando è il primo davanti a una battaglia, tutti vai, allora mi raccomando fa così, cos'ha, mi raccomando qua, allora hai fatto questo, allora bisogna stare attenti che queste persone, anche a volte cercando di aiutarci, ci fanno comunque parlare, ci mettono un'ansia in più, e quindi bisogna a un certo punto chiudere veramente e staccare la spina. Arturo, tu riesci? Come? Tu ci riesci a farlo? Sì, per esempio, io mi chiaro, faccio le prove, mi alleno come tutti coloro che devono fare questi tipi di exploit, e poi a un certo punto dico grazie, chiudo la porta del camerino, spengo la luce e mi corico se c'è un sofaletto, anche solo per 20 minuti, oppure mi estraneo, staccare la spina, perché se uno sta, parlo teatralmente, ma 24 ore al giorno in teatro, dopo un po' il fisico non è come, capisci, innaffiare della sabbia, non serve più a niente. Devi proprio cambiare aria al cervello, obbligarti a staccare, a non farti divorare da tutti questi che vogliono poi scherzare, dai facciamo così e dai toi, un, due, tre, merda, vabbè, sì, tutte sì. Che però, capisci, uno più uno, arriva uno allo spettacolo e spompato perché ha fatto il cretino, ha fatto sì. fino a un momento prima. Guarda che nel nostro piccolo anche noi proviamo delle cose molto simili. Arturo, tu sei terapeutico, dovresti scrivere un libro, ma intanto, è vero, lo penso, perché io mi sento già... Ma guarda, c'è molta gente che mi dice, vedi? Quando sto con te, sai cos'è? E non dico Laura perché l'abbiamo tutti là, ma bisogna anche curarla come una pianta, no? E quindi bisogna... Vieni un po' qua, va, così ci abbracciamo, che almeno ci ricarichi. Intanto, serve molto. Serve. Vero, io non sono una grande sostenitrice dell'abbraccio ricaricante, questo non so se prima... Ma è provato, non è una... Certo. Ma io in tempi non sospetti, io sono stata allevata proprio da una nonna che sull'abbraccio ricaricante ci ha veramente in qualche modo educato, e secondo me funziona. Ma sentiamo il dottor Confalonieri, che invece vedo che qua vuole interagire, come si dice, con Arturo. D'altra parte, come farsi scappare questa occasione? Un grandissimo onore. E al di là di quello, avete detto due cose che trovano dei riscontri molto profondi e molto precisi anche nell'esperienza con gli atleti di alto e di altissimo livello: la necessità dell'isolamento e della tranquillità prima della gara importante. Se un atleta ha bisogno dell'allenatore, del compagno di squadra o del colloquio nel momento immediatamente precedente la gara, vuol dire che le cose non vanno. Se le cose funzionano, ha bisogno di quei 20 minuti, mezz'ora di assoluto isolamento in un angolo dello spogliatoio. E un'altra esperienza è proprio quella dell'abbraccio ricaricante post gara. Nei rapporti allenatore-atleta che funzionano, alla fine della gara, indipendentemente dal risultato, c'è un abbraccio tra l'allenatore e l'atleta che trasmette emozioni ed energia. Quindi vedete che ci sono delle correlazioni forti con la prestazione sportiva. Arturo, ci è andata bene? Abbiamo detto due cose intelligenti. Perché poi si creano dei meccanismi, se uno è così, come, non siamo mica dei kamikaze, cioè vai, ammazzali tutti, no? Anzi, se uno si concentra, si calma, e uno diventa estremamente razionale, e quindi va a fare la sua gara o la sua prestazione in maniera serena. Se invece c'è dietro una valanga, si sente, come dire, il fiocco di neve davanti alla valanga, con dentro i quintali di neve che ti spingono, è certo che scendi giù la discesa, ma vai a finire dove vai a finire, ecco. Questa è la mia filosofia. L'abbraccio poi è provato, perché è come l'amore, sai, far l'amore scarica delle endorfine, un casino di sostanze veramente nel cervello. L'abbraccio non è a quel livello, però, ma è uno anche scambio energetico incredibile. Però si possono dare più abbracci anche nella stessa giornata, quindi alla fine... Ma tantissimo! Allora, io volevo dare l'opportunità alla dottoressa Gambarino di intervenire e magari ha una domanda, un commento, un complimento da fare ad Arturo. Sì, complimenti sicuramente, per veramente qua in questo caso parliamo neanche di un campione, se stiamo nella metafora sportiva, ma veramente di un fuoriclasse, no? Dal quale sicuramente anche tutti noi come psicologi dello sport abbiamo da apprendere sui meccanismi, no? Per una prestazione così d'eccellenza come quella di Arturo Brachetti. Sicuramente ha detto delle cose estremamente interessanti per quello che sono i momenti precedenti la competizione e quella che noi chiamiamo anche una routine pre-gara. È vero che è fondamentale per una prestazione d'eccellenza una massima connessione tra mente e corpo, ma non solo, tra mente, corpo e ambiente. Ambiente in questo caso anche rispetto a quello che può essere poi il pubblico e quindi certo, saper entrare in sincronia col pubblico, ma sicuramente anche quelle che possono essere prima della prestazione le interferenze, per cui fondamentale è saper gestire nel modo giusto l'energia e avere proprio un proprio ritmo, per cui è vero che anche un artista come un atleta non può essere attivato al 100% per un tempo lunghissimo, anche è una caratteristica fondamentale sapersi attivare nel momento prima della prestazione, della performance, con una propria routine che è molto personale. Per noi proveremo proprio a dare, dottoressa Gambarino, questi consigli, a calarli per al bisogno ai nostri ascoltatori, che invito a chiamarci all'800 24 00 24. Arturo, oggi la prima, 2 settimane a Milano per fortuna, poi andrai a Assisi, Livorno, Torino, la dottoressa Gambarino è proprio di Torino, non so se hai sentito l'accento, Padova, Rimini, Genova, insomma, no? Sì, sì. E poi vogliamo parlare anche del tucatuca, cioè di quelle stupidaggini che la gente fa, io no, prima sì, a volte prima delle gare, tipo toccare il cornetto e dare un bacino al santino. E guarda, io non ne faccio perché non sono superstizioso, sono anche abbastanza ateo, però sì, se questo può servire, perché no? D'altronde il sottotitolo del mio spettacolo quest'anno, che è uno spettacolo nuovo, che appunto che faccio con altra gente, quindi non è l'uomo dei mille volti da solo, ma è uno spettacolo che faccio con altri, il sottotitolo è la realtà immaginata che ci rende più felici. E quindi se la realtà immaginata, cioè il cornetto, il rituale di mettersi la scarpa prima a destra o prima a sinistra, cioè ognuno poi ha delle stupidaggini, sì, se ti aiuta, basta che coscientemente lo sappi che non è quello che ti fa vincere o perdere. Certo, però mi piace, è la realtà immaginata che ci rende più felici. Grazie Arturo per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata, grazie allora ad Arturo Brachetti. Andiamo invece a Roma. Ci aspetta Giorgio, buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno a voi, mi sentite? Benissimo. Perfetto, dunque non sono ai livelli di cui stavate parlando perché sono, diciamo, faccio parte della categoria degli amatoriali. Ma certo, ma noi parliamo, abbiamo avuto un fuoriclasse Arturo Brachetti, ma poi ritorniamo nella quotidianità. Però diciamo che il risvolto psicologico bisogna vederlo anche per chi fa sport da un livello, da un punto di vista amatoriale. E certo, siamo qua per questo. Perfetto, dunque io faccio corsa a fondo, mezzo fondo da 35 anni, non ho mai interrotto di allenarmi, ma una media di 8, 9, 10 km al giorno, questo forse è anche un po' eccessivo, tant'è vero che a lungo andare poi ho avuto un problema al menisco da circa un anno e questo mi crea qualche problemino e sono stato obbligato, anzi sono obbligato adesso a fare marcia anziché corsa. Giorgio, dovrebbe arrivare alla domanda perché noi tra poco abbiamo i mercati. La domanda è molto semplice, questo diciamo che mi crea un certo impatto psicologico, io non trovo più quella soddisfazione che avevo prima facendo la corsa, quindi vorrei capire innanzitutto se alla mia età, 60, è il caso di pensare a un intervento al menisco, si tratta solo di menisco perché questo è quanto è stato riscontrato dalla risonanza magnetica, oppure... o seppure si può dire vabbè, ma la marcia è anche uno sport di tutto rispetto e quindi si può fare marcia. Devo dire che però io non sono gratificato così. Non come è così, insomma, Giorgio non è molto contento. Dottor Confalonieri, io sono contenta se lei dà una risposta incisiva e breve, perché andiamo poi ai mercati. Sì, sarò molto breve. Primo consiglio: si operi il menisco, così può pensare di ricominciare a correre. E se non vuole operarsi, cambi completamente tipo di sport e magari ritrova le gratificazioni che aveva nella corsa. Andrea, Andrea Scandicci ci dice: il conf ormai è il mio vate. Eccoci di nuovo insieme. Se siete prossimi ad una gara, ad un evento che per voi riveste particolare importanza e volete prepararvi con noi, chiamateci subito all'824-0024. Io intanto saluto il professor Fabrizio Tagliavini, direttore del Dipartimento di Malattie Neurodegenerative della Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, che è qui per raccontarci i risultati di uno studio sull'Alzheimer che ha implicazioni molto importanti sia nell'ambito dello screening genetico sia della terapia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professor Tagliavini, la malattia di Alzheimer è la causa più comune di demenza. In Italia ne sono colpite 450.000 persone, ma la cifra, proprio in relazione all'invecchiamento della popolazione, è destinata a crescere. Noi sappiamo che questa malattia è causata, lei mi corregga, ma dall'accumulo nel cervello di un frammento proteico che è la beta proteina, che si aggrega e genera dei depositi insolubili. Ma la vostra ricerca ha fatto un passo avanti, ha studiato e ha trovato un comportamento curioso. La nostra ricerca, che parte da un'osservazione clinica, ha identificato una mutazione della beta proteina che si comporta in modo, in qualche modo, sorprendente, perché quando questa beta proteina mutata interagisce, si incontra con la proteina normale, blocca il processo di formazione di amiloide, quindi blocca la formazione di placche senili. Questa osservazione è avvenuta in laboratorio, quindi sono studi in provetta in qualche modo, ma siamo già pronti per passare dalla provetta a modelli animali di malattia, proprio per testare questa possibilità di utilizzare la beta proteina mutata per bloccare la formazione di amiloide e lo sviluppo della malattia. Naturalmente questa è una strada molto lunga, si parte da studi condotti in provetta. C'è una fase adesso che abbiamo iniziato su animali da laboratorio. Questi studi certamente richiederanno alcuni anni. Contestualmente noi stiamo lavorando per modificare questa beta proteina mutata in modo da renderla meno degradabile, più stabile, e anche per veicolarla meglio a livello del cervello, e poi si passerà eventualmente, se tutto va bene, a una sperimentazione sull'uomo. Professor Tagliavini, la ringrazio per essere stato con noi, complimenti e buon lavoro. Grazie a lei. Prepariamoci, 824-0024, spazio alle telefonate, sono davvero molte. Francesco da Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti. Francesco, la sentiamo. Venga la domanda, sì. Grazie a lei Francesco di aver chiamato, ci racconti. Sì, e niente, io circa 2 anni fa facevo combattimento, anche a livello abbastanza serio, poi ho avuto un grave infortunio al ginocchio, e adesso ho lasciato. Sì. E mi risulta psicologicamente difficile riniziare, quindi volevo un consiglio sul modo migliore per rimettersi in pista. Grazie Francesco, le metto a disposizione la dottoressa Gambarino e poi continuiamo con le telefonate. Dottoressa Gambarino, riprendere. Non ho sentito una piccola parte della telefonata, quindi è stato molto fermo per un problema al ginocchio, è così, vero? Adesso, esatto, e adesso però Francesco ha messo giù, ci sta seguendo in linea, è difficile riprendere. Io penso che il problema di Francesco sia un problema molto, molto comune, persone che smettono. Sì. Per una serie di ragioni e poi non ce la fanno più a riprendere il passo. Dottoressa Gambarino, io vorrei consigli pratici. Sì, in questo soprattutto quando si ha avuto un incidente, un infortunio a riprendere un'attività sportiva è difficile a causa anche a volte di un trauma, una paura più che altro, una difficoltà nel ritrovare quella che è l'autoefficacia, cioè il dire ce la posso di nuovo fare. Per cui l'idea di darsi dei piccoli obiettivi di nuovo che possono essere sfidanti ma allo stesso tempo alla portata dell'atleta, questo è sicuramente un qualche cosa che può aiutare. Dottor Confalonieri, vuole aggiungere qualcosa? Sì, sono d'accordo, aggiungerei magari, come dicevo già prima, di cambiare completamente lo scenario sportivo, cioè ricominciare facendo qualcosa che non c'entri nulla col combattimento, perché troverà gratificazioni diverse, soprattutto immediate, e non si confronterà con un passato che spesso è ingombrante. 824 0024, abbiamo un appuntamento a Pavia con Monica, a Rieti con Felice, a Torino con Marco. Ma dottor Confalonieri, vorrei parlargli una parola chiave, secondo me, no, per prestazione: allenamento. Sì, è molto importante, anche perché vorrei lanciare un messaggio preciso da questo punto di vista. Moltissimi, soprattutto a livello amatoriale, o molti ragazzini agli inizi, in vista della prestazione tendono a intensificare l'allenamento, ad aumentare l'allenamento. Mi alleno di più, sarò più pronto. È completamente sbagliato. L'ultimo periodo prima di una prestazione a cui teniamo, dobbiamo ridurre l'allenamento, sia come quantità che come qualità, dare la possibilità al nostro organismo di assorbire tutto quanto abbiamo costruito nel tempo ed arrivare in condizioni di riposo o di benessere alla prestazione. La gestione di questa fase finale di scarico, cosiddetta tecnicamente, è fondamentale per una buona prestazione. Quindi credo che questo sia un messaggio che vorrei arrivasse a tutti, e magari anche sentire dai nostri ascoltatori se hanno questa abitudine di ridurre il carico in funzione della prestazione, o se sono fra i tanti che devo andare bene, quindi continuo ad allenarmi. Un po' come si fa quando si fanno le nottate dello studio prima di un'interrogazione. Difatti, io facevo proprio questo. Così. Siccome avevo una formazione da tecnico, io facevo il periodo di carico e poi nell'ultimissimo periodo mollavo tutto, perché scaricavo anche in funzione dell'esame. Infatti, allora abbiamo visto che bisogna scaricare la spina, staccare la spina, scusate, come ha sottolineato Arturo Bracchetti e naturalmente la nostra dottoressa Gambarino, e bisogna rallentare un po' il passo. 824 0024, diteci se riuscite a farlo e soprattutto se facendolo avete trovato giovamento. E come promessa andiamo a salutare la nostra amica Monica di Pavia. Buongiorno Monica. Buongiorno. Eccoci a lei. Io ho una domanda da fare per mia figlia che pratica pattinaggio artistico, fa gare e più volte sia io che mio marito, che abbiamo fatto gare, esami in università eccetera, abbiamo detto di utilizzare quei piccoli trucchi che avevate detto prima, di isolarsi un attimo, ma in realtà questo non succede mai. Oltretutto le sue gare hanno dei tempi particolari, cioè deve concentrarsi più volte nell'arco della giornata e non so, si concentra veramente poco, magari 2 minuti prima di entrare, ma dopo gioca, salta, va. Come si fa a insegnare una cosa del genere a una ragazzina di 11 anni, quindi molto giovane? Allora, vediamo che cosa dice la dottoressa Gambarino e poi che cosa aggiunge, se ha da aggiungere, il vate di Andrea, il dottor Confalonieri. Dottoressa Gambarino, grazie a lei Monica. Siamo con una ragazza giovane, 11 anni, sportiva, fa gare. La mamma dice, insomma, che ha l'argento vivo addosso, non è che si concentri molto, no? 2 minuti e poi parte. Come si può educare una ragazza giovane a prepararsi bene mentalmente ad una prestazione? È fondamentale una cosa che ha detto Monica: la ragazzina ha 11 anni, quindi a 11 anni l'aspetto importantissimo è quello ancora del divertimento, e quello quindi difficile già educare, fare una preparazione mentale a quell'età. Più in generale, sicuramente l'importante è imparare ad attivarsi prima della competizione, questo, e poi a disattivarsi dopo. Questo si può fare iniziando a riconoscere di più le proprie emozioni, il proprio stato mentale, con delle tecniche specifiche comunque che si possono imparare man mano, e quindi allenare. Dottor Confalonieri, un'aggiunta? A 11 anni, quindi la dimensione fondamentale dovrebbe essere quella del gioco. Il gioco è gioia, il bambino tende a condividere la gioia del gioco, quindi è giusto che saltelli insieme ai genitori o agli amici. Tra poco partono delle maratone, ad esempio un ascoltatore ci dice che quale chilometraggio mi consiglia giornalmente per la maratona di Roma, quindi segno che molti dei nostri ascoltatori stanno dicendo, praticamente anche dai messaggi, bene, ci prepariamo mentalmente, ma anche i nostri muscoletti vanno preparati, come quanto, che cosa bisogna mangiare, se bisogna cambiare la dieta. Di questo parleremo, ma io voglio dare spazio alle telefonate dei nostri ascoltatori. Abbiamo Felice da Rieti. Buongiorno Felice, benvenuto. Buongiorno Felice. Niente, il mio tendenzialmente è più un problema, presumo, psicologico. Sì. Per il semplice motivo che io sono 20 anni che insegno aerobica, step, acqua gym, praticamente 4 volte a settimana. D'estate, oltretutto, faccio anche il capo sport nei villaggi. Veramente sì. Ho 41 anni. Sì. E l'unica cosa è che io non riesco proprio mentalmente a fare a meno della corsa. Io tutti quanti i giorni, pioggia, neve, vento, qualsiasi, devo andare fuori a correre. È soltanto che alcune volte mi accorgo che ne risente anche la mia attività fisica che faccio per lavoro. Ho capito, cioè nel senso che la corsa si stanca un po' e lei arriva un po' con le pile scariche. Dottor Confalonieri. Beh, indubbiamente in questo caso non si concilia il bisogno psicologico della corsa con l'attività dell'aerobica. Io consiglierei di sostituire almeno 1 o 2 volte alla settimana la corsa con la bicicletta, è comunque un'attività estensiva, è comunque un'attività aerobica, ma l'impegno muscolare si integra meglio con quello dell'aerobica rispetto all'impegno muscolare richiesto dalla corsa. Andiamo a Torino dove ci aspetta Marco. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Questa domanda da porvi. Pratico da 9 anni hockey subacqueo, che è uno sport minore, poco conosciuto. Hockey subacqueo. Farà sorridere. No, anche Peter Bescapè, che le sa tutte, vi ho visto che su questo non era preparato. E comunque sono contento. È uno sport di squadra che si pratica in apnea e ci alleniamo regolarmente 2 volte alla settimana. Senta Marco, già adesso ci ha stupito. Allora stia con noi, non in apnea, può respirare. Eccoci che siamo tornati qua, 824 0024. Marco, allora, hockey in apnea. Sì, ecco, quindi dicevo, ci alleniamo regolarmente 2 volte alla settimana, però mercoledì scorso mi è successa una cosa un po' insolita, mi sono anche un po' spaventato. Praticamente andavo quasi in panico tutte le volte che scendevo in apnea e praticamente la mia resa era un 50% quello che è normalmente. Cioè non vedevo l'ora, come andavo giù, non vedevo l'ora di tornare su, avevo proprio come una crisi di ossigeno e volevo capire da cosa poteva essere dovuto, se può essere una cosa stanchezza, un problema psicologico o un problema medico. Noi abbiamo entrambi gli esperti e per cui chiedo alla dottoressa Gambarino di darci il suo parere, poi naturalmente al dottor Confalonieri, magari andando giù è capitato qualcosa. Dottoressa Gambarino. Sì, io purtroppo gentilmente devo chiedere di riassumere la domanda perché non sento. Allora, dottoressa, allora abbiamo un problema tecnico. Allora, il nostro amico scendendo pratica hockey subacqueo, ma scendendo aveva la sensazione di non stare bene, quasi una specie di botta di ansia. Allora, si chiedeva giustamente, dato che la cosa spaventa, se poteva essere qualcosa legato a qualcosa di, tra virgolette, psicologico, oppure invece potesse essere qualcosa di medico. Come lei adesso ci sente, dottoressa? Sì, okay. Adesso vi sento sicuramente. Rispetto a questo tipo di situazioni, l'ansia e quindi quelle che sono le nostre emozioni possono avere un'influenza anche poi sugli aspetti fisici e quindi sulla resa poi dell'apnea. Sicuramente questo può esserci, ci può essere anche qua, lascerei la parola al dottor Confalonieri, però degli aspetti anche magari legati alla stanchezza piuttosto che a problematiche più fisiche. Che cosa deve fare dottor Confalonieri? Farsi dare che una controllata dal medico che magari... Sì, direi che in un professionista dell'apnea, perché una persona abituata a giocare hockey in apnea 2 volte alla settimana con regolarità, la comparsa improvvisa di questa situazione è sicuramente legata a un fattore esterno che è comparso. Quindi una situazione di stress particolare, di fatica particolare, di difficoltà particolare che si è manifestata in questo modo. Quindi conviene fare una valutazione degli elementi esterni e ricominciare soltanto quando ha rimesso a posto un po' tutto, se no c'è il rischio di un abbandono definitivo. Dottor Confalonieri, noi abbiamo una risposta da dare al nostro amico che vuole prepararsi per la maratona di Roma. Lei ha detto l'allenamento naturale, lo sappiamo, è importante. Che cosa si può fare? Dunque, la maratona di Roma dovrebbe essere fra una decina di giorni, quindi siamo nell'ultimissima fase. Mi limiterei a 1 o 2 allenamenti di richiamo ad intensità di fondo medio, quindi inferiore alla velocità di soglia anaerobica, e 2 uscite di scarico, il resto riposo. Quindi 4 allenamenti, 2 un po' impegnativi e 2 no, e 3-4 giornate di riposo assoluto. Allora, Davide, ci chiama da Verona. Buongiorno Davide. Buongiorno, volevo dare la mia esperienza per quello che riguarda l'attivare o disattivare la concentrazione nel momento giusto della gara. Io faccio uno sport che praticamente tutti hanno fatto, cosa ma che nessuno conosce come sport, che è il braccio di ferro. Veramente? Sì. Bellissimo! Ed è e una vince? Cosa che tutti sì. poi hanno fatto. E questo sport ha di particolare che dura pochissimo, nel senso la competizione tra i due avversari normalmente si sviluppa in una manciata di secondi, a volte una frazione di secondo. Per cui nel momento stesso della competizione noi dobbiamo attivare il nostro cervello e la nostra concentrazione per riuscire a dare il massimo nelle forze esplosive. Io non pensavo che ci fossero gare di braccio di ferro, il dottor Confalonieri lo sapeva. Nessuno lo conosce. Però oggi scopriamo l'hockey in apnea, sì, sì. le gare di braccio di ferro, non so se lo sapeva neanche il dottor Confalonieri. Quindi Davide, lei ci dà un suggerimento o ha da fare una domanda? No, no, proprio sportare una mia esperienza. Sì. Bisogna proprio riuscire ad arrivare a quello stato mentale di riuscire a concentrarsi al momento giusto per dare il massimo nel tempo necessario per fare la competizione, disattivare e riattivarlo quando poi serve, perché altrimenti la concentrazione mentale prolungata nel tempo e tentare di tenerla al massimo dei livelli ti distrugge sia fisicamente che mentalmente. Grazie Davide. Consuma molta più energia. Grazie Davide. Dottor Confalonieri, sono più facilitate le persone come Davide che hanno da concentrarsi tutte nel breve piuttosto che mantenere la concentrazione nel lungo? È un'esperienza molto interessante, è molto diversa dalla concentrazione magari legato a uno sport di squadra. Mi ricorda molto il braccio di ferro, il sumo, che è uno sport diffusissimo in Oriente, molto legato anche alla loro personalità, e veramente queste persone hanno una capacità di gestire la loro mente superiore alla media, che viene anche dall'allenamento per fare questi sport e quindi che viene anche dalla necessità di preparare prestazioni particolari, un po' il tema della trasmissione di oggi. E allora io saluto la dottoressa Claudia Gambarino, la ringrazio per essere stata con noi, mi spiace che ogni tanto non poteva magari sentirci e grazie e buona giornata. Grazie a lei dottoressa. Il dottor Confalonieri rimane con me perché insieme salutiamo il professor Vittorio Andreucci, ordinario di nefrologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Fondazione Italiana del Rene. Ieri abbiamo parlato dei nostri reni, è stata appunto celebrata la giornata mondiale del Rene. Buongiorno professor Andreucci. Buongiorno. Professor Andreucci, vogliamo ricordare ai genitori di occuparsi anche della salute dei reni dei loro bambini. Questo è importante. Si può fare prevenzione, si deve fare prevenzione fin dalla più tenera età. Professore. Esatto, perché le malattie renali si manifestano molto spesso senza sintomi e a tutte le età, quindi anche nell'infanzia. Perfino l'ipertensione arteriosa, che viene comunemente ritenuta una affezione degli adulti o degli anziani, si può manifestare in età infantile. Noi abbiamo controllato i bambini nelle scuole tra i 10 e i 15 anni. Su 7.000 bambini abbiamo trovato che il 3,5% aveva un'ipertensione arteriosa. E siccome l'ipertensione spesso è senza sintomi, la pressione va controllata anche nei bambini, così come va effettuato l'esame delle urine, perché il primo segno di una malattia renale è la comparsa di proteine di sangue nelle urine. Ne abbiamo parlato proprio ieri insieme al professor Remuzzi, sappiamo che far fare attività fisica ai nostri bambini è comunque una regola di prevenzione, un investimento importante per la salute. Infatti tante volte abbiamo detto che i valori della pressione scendono da dove c'è un'ipertensione proprio praticando attività sportiva. Una ragione in più per dare modo ai nostri bambini di frequentare piscine, palestra, di farli giocare fuori all'aperto. Professor Andreucci, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Grazie altrettanto. Dottor Confalonieri, noi dobbiamo salutarci. Sì. Ci diamo appuntamento al prossimo venerdì. Prossimo venerdì parleremo di corsa. No, di bicicletta. Di bicicletta, è un po' che non ne parliamo, delle due ruote da vari punti di vista. Quindi in tutte le formule, mountain bike, ciclismo, bicismo, spinning, idrobike, un po' di tutto. Un po' di tutto, vi aspettiamo, intanto io vi aspetto domani, a questa casa non è un albergo, a mezzogiorno, e lunedì torniamo come sempre insieme dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.